Capitolo 8. Scivolando nel pericolo. Il giovedì, la tranquilla casa di campagna era esaltata in ogni sua fibra al pensiero del ritorno di Roger. Mrs. Hamley non era parsa star bene o essere di buon umore per i 2 o 3 giorni precedenti, e anche lo squire era sembrato fuori di sé, senza che ci fosse una ragione visibile. I due avevano deciso di non dire a Molly che il nome di Osborne era comparso molto in basso nella classifica dei voti di matematica. Dunque, tutto ciò che la loro visitatrice sapeva era che qualcosa stava andando storto, ed ella sperò che l'arrivo di Roger riportasse l'armonia, perché quella situazione era fuori dalla portata delle sue piccole attenzioni e premure. Quel giovedì la cameriera si scusò per una lieve negligenza nella sua camera, dicendo che era stata impegnata a pulire le stanze di Roger. Non che non fossero linde già da prima, ma la signora vuole sempre che vengano lavate nuovamente quando i signori fanno ritorno. Se si fosse trattato di Mr. Osborne, tutta la casa avrebbe dovuto essere pulita, ma di certo lui è il maggiore, quindi è normale. Molly era divertita da questa testimonianza sui diritti ereditari, ma in qualche modo anche lei si era adeguata all'abitudine della famiglia di ritenere che nulla fosse troppo solenne o troppo perfetto per il figlio maggiore. Agli occhi del padre, Osborne era il rappresentante dell'antica casa degli Hamley di Hamley e il futuro possidente delle terre che erano loro appartenute per 1000 anni. La madre era legatissima a lui perché erano fatti dello stesso stampo, sia fisicamente che mentalmente, e perché lui portava il suo nome da ragazza. Ella aveva indottrinato Molly nella sua fede e, a dispetto del fatto che il discorso della cameriera le suonasse buffo, la giovane visitatrice sarebbe stata ansiosa, come gli altri, di dimostrare la propria lealtà feudale nei confronti dell'erede, se fosse stato lui sul punto di arrivare. Dopo pranzo, Mrs. Hamley andò a riposare in preparazione del ritorno di Roger e anche Molly si ritirò nella propria stanza, pensando che sarebbe stato meglio per lei rimanervi fino all'ora di cena e lasciar così che il padre e la madre accogliessero il figlio privatamente. Portò con sé un libro di poesie manoscritte, tutte composte da Osborne Hamley. La madre gliene aveva letta ad alta voce più di una volta. Molly aveva chiesto il permesso di copiarne un paio tra quelle che erano le sue preferite e in quel quieto pomeriggio d'estate scelse di impegnarsi nella copiatura, seduta gradevolmente di fronte alla finestra aperta e smarrendosi in occhiate sognanti verso i giardini e i boschi che tremolavano nel cuore del mezzogiorno. La casa era così silenziosa che in quella quiete sarebbe potuta essere la fattoria cinta dal fossato, il ronzio rombante delle mosche azzurre sulla grande finestra delle scale sembrava il suono più dolce che provenisse dall'interno. E anche da fuori si udivano appena dei rumori, a parte quello delle api che mormoravano nelle aiuole sotto la sua stanza. Voci lontane, nei campi distanti in cui si lavorava il fieno, il cui profumo giungeva in ondate improvvise, ben distinto da quello delle rose e del caprifuglio più vicini. Queste allegre voci acute facevano percepire a Molly proprio la profondità del silenzio intorno a lei. Aveva smesso di ricopiare. La mano era stanca per l'insolito sforzo di una scrittura così prolungata e stava pigramente tentando di imparare a memoria un paio di quelle poesie. Chiese al vento, ma non vi fu seguito, se non il suo solito triste e solitario gemito. Continuava a ripetere tra sé e sé, smarrendo il senso di un qualunque significato quelle parole potessero avere, in una ripetizione che era diventata meccanica. All'improvviso si udì il colpo di un cancello che si chiudeva, le ruote scricchiolarono sulla ghiaia asciutta, le zampe dei cavalli raggiunsero il viale, una voce forte e lieta risuonò in casa. Salì attraverso le finestre aperte, l'ingresso, i corridoi, le scale, con un tono di sconosciuta rotondità e franchezza. Al piano inferiore l'atrio era decorato a rombi marmorei bianchi e neri. L'ampia bassa gradinata che si diramava in brevi scalinate ai lati dell'ingresso, mostrando così dal piano di sopra la pavimentazione di marmo. Era nuda, priva di copertura. Lo squire era troppo orgoglioso del suo assito di quercia posato così magistralmente per nasconderlo senza che ve ne fosse la necessità, per non dire dell'usual penuria di denaro contante da spenderle per le migliorie in casa. Di conseguenza, attraverso lo spazio cavo e scoperto dell'atrio e della scalinata, i suoni salivano chiari e distinti, e Molly udì il felice «Salve! Eccolo qua!» dello squire e la voce più dolce e lamentosa della signora. E poi quel tono strano, pieno, sonante, che sapeva dover appartenere a Roger. Ci fu poi un aprire e un chiudere di porte e solo un lontano brusio di voci. Molly ricominciò. Chiesi al vento, ma non vi fu seguito. E stavolta aveva quasi finito di imparare la poesia quando sentì Mrs. Hamley entrare frettolosamente nel salottino adiacente alla propria stanza e scoppiare in un incontrollabile attacco quasi isterico di singhiozzi. Molly era troppo giovane per nutrire qualsiasi tipo di scrupolo che le impedisse di andare immediatamente a tentare di offrire ogni conforto possibile. In un istante era in ginocchio ai piedi di Mrs. Hamley. Stringeva le mani della povera donna, le baciava e mormorava parole dolci. E queste, che non volevano significare altro se non simpatia per quel dolore inespresso, fecero bene a Mrs. Hamley. Ella si riprese e sorrise tristemente alla ragazza tra i fitti singulti. «Si tratta solo di Osborne», arriverò alla fine. «Roger ci ha raccontato». «Che cosa?» chiese Molly agitata. «Io lo sapevo già lunedì. Abbiamo ricevuto una lettera. Diceva di non essere andato bene come sperava lui, povero ragazzo. Diceva di essere semplicemente stato promosso, ma si è collocato molto in basso nella lista degli Junior Optimist. E non dove si aspettava e ci aveva indotto a credere. Ma lo Squire non è mai stato al college e non capisce i termini che si usano lì. Ha chiesto i dettagli a Roger e Roger glieli ha rivelati e l'ha fatto arrabbiare tantissimo. Ma lo Squire detesta il gergo del college. Non c'è mai andato, capisci? Ha pensato che Osborne la stesse prendendo troppo alla leggera e ha chiesto a Roger. E di nuovo scoppiò in lacrime e singhiozzi. Molly sbottò. Non penso che Mr. Roger avrebbe dovuto dirglielo. Non aveva alcun bisogno di cominciare subito col resoconto del fallimento del fratello. Non è arrivato neppure un'ora fa. «Zitta, zitta, amor mio!» la pregò Mrs. Hamley. «Roger è tanto buono, tu non capisci. Lo Squire ha iniziato a fare domande prima che Roger toccasse cibo, non appena siamo entrati in sala da pranzo. E tutto ciò che ha detto, almeno a me, è che Osborne era nervoso e che se solo avesse potuto presentarsi per la medaglia del cancelliere, avrebbe potuto conquistarsi il favore di tutti». Ma Roger dice che dopo un così pessimo risultato è improbabile che il fratello conquisti la posizione che lo Squire sperava. Lo stesso Osborne ne era talmente sicuro che lo Squire non riesce a farsene una ragione ed è seriamente arrabbiato. E più ne parla, più si infuria. Se l'è tenuto dentro per 2 o 3 giorni. Ma questo non gli si confà. È sempre meglio quando sfoga la sua ira per una cosa senza covarla in testa. Povero, povero Osborne. Avrei preferito che tornasse dritto a casa invece di andare dai suoi amici. Penso che avrei potuto consolarlo. Ma ora sono felice, perché è meglio che suo padre sbollisca prima la rabbia. Così, parlando di ciò che aveva nel cuore, Mrs. Hamley recuperò la sua compostezza e alla fine mandò Molly a cambiarsi per la cena con un bacio, dicendole: Bambina, tu sei proprio una benedizione per una madre. Sai dare una compassione così piacevole. Sia nelle occasioni felici che in quelle dolorose, nelle espressioni di orgoglio. Ero così fiera e fiduciosa la settimana scorsa e nelle delusioni. E ora il fatto che ci sia tu a tavola ci eviterà di affrontare questo penoso argomento. Ci sono volte in cui avere un estraneo in famiglia è un aiuto prodigioso. Molly ripensò a tutto quanto aveva sentito mentre indossava il terribile e troppo sofisticato abito a quadri in onore del nuovo arrivato. Il suo inconsapevole voto di lealtà a Osborne non era stato minimamente intaccato dal fatto che a Cambridge fosse andata così male. Era solo indignata, con o senza ragione, con Roger, che sembrava aver portato la schiettezza di quelle cattive notizie come un'offerta di primizie, non appena giunto a casa. Scese in salotto, portando nel cuore soltanto un'espressione di benvenuto. Egli era in piedi accanto alla madre. Lo Squire non era ancora apparso. Molly credette che i due si tenessero per mano prima che lei aprisse la porta, ma non poteva esserne certa. Mrs. Hamley avanzò un poco per venirle incontro. E la presentò al figlio in modo così affettuoso e intimo che Molly, semplice e innocente e ignara di tutto ciò che esulasse dalle maniere di Hollingford, che erano tutto tranne che formali, quasi tese la mano per stringere quella di colui del quale aveva sentito parlare così tanto. Il figlio dei suoi gentilissimi amici. Spero solo che lui non avesse visto il gesto perché egli non mostrò alcun cenno di voler fare altrettanto. Si limitò a inchinarsi. Era un giovane alto e possente, che dava un'impressione più di forza che di eleganza. Il suo viso era squadrato, dal colore acceso, come aveva detto suo padre. I capelli e gli occhi castani, e questi occhi erano ben incastonati sotto fitte sopracciglia. E aveva uno strano modo di corrugare le palpebre quando intendeva scrutare qualcosa di particolare che rendeva i suoi occhi ancora più piccoli. Aveva la bocca grande, con labbra eccessivamente mobili, e un altro suo ticchio era che, quando era divertito da qualcosa, resisteva all'impulso di ridere contorcendo e piegando la bocca in modo molto buffo, finché l'umorismo aveva la meglio. I suoi tratti si rilassavano ed egli si lasciava andare a un ampio sorriso. I suoi bei denti, la sua unica qualità avvenente, scintillavano bianchi su quella carnagione brunita. Quei suoi due vezzi, corrugare le palpebre per concentrare la vista che lo facevano apparire severo e meditabondo, e il bizzarro arricciare delle labbra, premessa di un sorriso che lo mostrava intensamente allegro, conferivano alle cangianti espressioni del suo volto uno spettro più ampio, da serio a gaio, da vivace a severo, della maggioranza degli uomini. A Molly, che quella prima sera non fu molto sagace nelle sue occhiate allo sconosciuto, egli appariva semplicemente goffo e sgraziato, e una persona con cui ne era certa non sarebbe mai potuta andare d'accordo. Di certo lui pareva piuttosto disinteressato all'impressione che stava dando all'amica della madre. La sua età era quella in cui i giovanotti ammirano una bellezza compiuta piuttosto che un viso che porta i segni delle potenzialità di un futuro fascino, e in cui essi sono patologicamente consapevoli della difficoltà di trovare argomenti di conversazione con una ragazza che si trova nel pieno della sua adolescenza. Inoltre, i suoi pensieri erano occupati da altre questioni, che egli non intendeva lasciar trapelare, pur desiderando evitare quei pesanti silenzi che sapeva essere in agguato, con un padre irato e dispiaciuto e una madre timorosa e angustiata. Egli vide solo che Molly era vestita male, che era parecchio impacciata, che aveva capelli neri e un volto piuttosto intelligente e che poteva assisterlo nella missione che si era proposto, ovvero di mantenere viva una conversazione su temi generali per il resto della serata. Lei avrebbe potuto aiutarlo se lo avesse voluto, ma non era così. Molly lo riteneva insensibile per tutta quella loquacità, la sua indefessa loquela su argomenti insignificanti, la meravigliava e la disgustava. Come poteva perseverare nella sua allegria mentre la madre, seduta lì accanto, non mangiava quasi nulla e faceva del suo meglio con scarso successo per ingoiare le lacrime che continuavano a salire agli occhi. E mentre il volto del padre era fortemente corrucciato e scuro, ed egli non si curava per niente, almeno all'inizio, di tutte le chiacchiere del figlio. Mr. Roger Hamley non provava alcuna pietà per lui? Beh, lei avrebbe dimostrato di averne. Perciò si rifiutò decisamente di assumere il ruolo che il giovane aveva sperato di destinarle, quello di rispondere e di fare domande. E il ruolo di Roger fu sempre quello di uno che si trova impantanato. Una volta lo squire si riscosse per parlare al maggiordomo, senza sentire il bisogno di uno stimolo esterno. Un vino migliore del solito. Portate una bottiglia di Borgogna con il sigillo giallo. Parlò piano. Non aveva animo di usare la sua solita voce. Il maggiordomo rispose con il medesimo tono. Molly, seduta lì accanto e a sua volta silenziosa, udì quanto fu detto. Se posso, signore, non sono rimaste più di 6 bottiglie con quel sigillo ed è il vino preferito di Mr. Osborne. Lo squire si voltò ringhiando. Portate una bottiglia di Borgogna con il sigillo giallo, come vi ho detto. Il maggiordomo si allontanò perplesso. Ciò che piaceva o non piaceva a Mr. Osborne aveva fino a quel momento determinato la legge di casa. Per Se preferiva un cibo, una bevanda particolare o una sedia, un posto preciso o una certa temperatura di caldo o di freddo, bisognava obbedire ai suoi desideri, perché lui era l'erede. Era delicato ed era l'intelligente della famiglia. Anche i lavoranti della tenuta l'avrebbero confermato. Mister Osborne voleva che un albero fosse tagliato o che restasse in piedi, o aveva questa o quell'idea sulla selvaggina. O aveva chiesto qualcosa di insolito a proposito dei cavalli e tutti dovevano sottostare ai suoi desideri, come se fossero legge. Ma oggi bisognava portare la bottiglia di Borgogna col sigillo giallo e così fu. Molly partecipò al rito con un certo ardore. Non beveva mai vino, dunque non avrebbe dovuto temere che l'uomo gliene versasse, ma come segno evidente di lealtà all'assente Osborne, per quanto scarsamente esso potesse essere percepito, posò il palmo della sua piccola mano abbronzata sul bicchiere e la tenne lì finché il vino fu fatto girare e Roger e suo padre l'ebbero assaporato con soddisfazione. Anche dopo cena i due uomini si attardarono sul dolce e Molly li sentì ridere e poi li vide bighellonare fuori nel crepuscolo. Roger era senza cappello, con le mani in tasca e ciondolava al fianco del padre, che ora era di nuovo in grado di parlare con la sua solita voce alta e allegra. Dimentico di Osborne. Ve victis. E così, con la muta ostilità di Molly da una parte, l'educata indifferenza che rasentava appena la cortesia da parte di Roger, i due si mantennero alla larga l'una dall'altro. Egli era impegnato in molte attività per le quali non aveva bisogno di alcuna compagnia, anche se la ragazza avesse avuto i requisiti per offrirla. La cosa peggiore fu che lei scoprì che il giovane era solito occupare la biblioteca, il suo rifugio preferito, la mattina, prima che Mrs. Hamley scendesse di sotto. Dopo il suo ritorno, un paio di volte lei socchiuse la porta e lo trovò intento tra carte e volumi, sparsi sull'ampio scrittoio foderato in pelle. E allora si ritirava in silenzio prima che lui potesse voltare il capo e vederla, e così distinguerla da una delle cameriere. Roger usciva a cavallo tutti i giorni, talvolta con il padre per i campi, talvolta più lontano per una bella galoppata. In queste occasioni Molly sarebbe stata lieta di accompagnarlo, perché adorava cavalcare. E appena era arrivata a Hamley, si era parlato di mandare a prendere il suo pony grigio e il suo completo da equitazione. Solo che lo squire, dopo averci pensato un po', aveva sostenuto che era raro per lui fare più di un lento giro da un capo all'altro, dove i suoi uomini erano a lavoro e dunque temeva che lei si sarebbe annoiata. 10 minuti di cavalcata su un terreno pesante, 20 minuti passati immobili in sella ad ascoltare gli ordini che egli doveva dare ai suoi braccianti. E adesso che, se avesse avuto il pony, avrebbe potuto fare delle belle corse insieme a Roger senza dargli alcun fastidio, sarebbe stata molto attenta a questo. Nessuno sembrava pensare a rinnovare la proposta. Tutto sommato, era tutto più piacevole prima che lui tornasse a casa. Suo padre passava abbastanza di frequente. A volte si verificavano lunghe e inspiegabili assenze, è vero, e allora la figlia iniziava a inquietarsi e a chiedersi cosa ne fosse stato. Ma quando l'uomo ricompariva, aveva sempre buone ragioni da addurre e il diritto che lei sentiva di avere nei confronti della sua familiare tenerezza domestica e la sua capacità di comprendere pienamente il valore esatto sia delle parole che dei silenzi del padre, rendevano questi barlumi di tempo speso con lui indescrivibilmente adorabili. Ultimamente il cruccio di Molly era sempre: quando posso tornare a casa, papà? Non che fosse scontenta o a disagio. Voleva tanto, tanto bene a Mrs. Hamley. Era la beniamina dello squire e non riusciva proprio a capire perché certa gente avesse tanta paura di lui. E Roger, anche se non portava nuovi piaceri, difficilmente la privava dei suoi. Ma desiderava essere di nuovo a casa. Non avrebbe saputo dire perché, ma sapeva bene di volerlo. Mr. Gibson ne discusse con lei finché la ragazza non ne fu così stanca da lasciarsi convincere che era giusto e necessario restare dove si trovava. E allora, con uno sforzo, frenò la richiesta sulla punta della lingua perché notava che la sua reiterazione infastidiva il padre. Durante la sua assenza da casa, Mr. Gibson stava scivolando verso il matrimonio. In parte era consapevole di dove si stesse dirigendo e in parte sembrava galleggiare nel dolce procedere di un sogno. Era più passivo che attivo in quella faccenda. Per Tuttavia, se la sua ragione non avesse pienamente approvato il passo a cui si stava avvicinando, se egli non avesse creduto che un secondo matrimonio fosse il modo migliore di recidere il nodo gordiano delle difficoltà domestiche, avrebbe fatto uno sforzo, senza darsi chissà che pena, e si sarebbe svincolato senza soffrirne dalla rete delle circostanze. Il tutto avvenne in questo modo. Dato che Lady Kemnor aveva fatto sposare entrambe le figlie maggiori, trovò le fatiche del ruolo di chaperon di Lady Harriet, la minore, decisamente alleggerite dalla cooperazione, e alla fine ebbe tempo di cadere ammalata. Era tuttavia troppo energica per concedersi di indulgervi con costanza. Si permetteva di farsi venire un esaurimento solo dopo una lunga sequela di cene, di ore piccole e di atmosfere londinesi. Dopodiché, lasciando Lady Harriet con Lady Cuxhaven oppure con Lady Agnes Manners, si ritirava nella relativa quiete delle torri, dove passava il tempo con la beneficenza, tristemente trascurata nel trambusto di Londra. Quell'estate ella si era sfinita prima del solito e desiderava fortemente la tranquillità della campagna. Riteneva inoltre che il proprio stato di salute fosse più preoccupante di prima, ma non ne fece parola con il marito né con le figlie, riservando le proprie confidenze per l'orecchio di Mr. Gibson. Non desiderava che Lady Harriet fosse allontanata dalle piacevolezze della città, nelle quali trovava un gran divertimento, a causa di fastidi che potevano dopotutto essere privi di fondamento. E tuttavia non gradiva l'idea di stare senza compagnia per le 3 settimane o il mese che poteva passare prima che la famiglia si riunisse alle torri, specialmente perché era impellente la celebrazione annuale delle visitatrici della scuola. E sia la scuola che le visitatrici avevano perso la gradevole patina della novità. Giovedì 19. Harriet, disse Lady Kemnor, pensosa. Cosa ne dici di andare alle torri il 18 e aiutarmi in quella lunga giornata? Potresti trattenerti in compagnia fino al lunedì e goderti qualche giorno di riposo e di aria buona. Torneresti molto più fresca a ciò che resta dei tuoi divertimenti. Tuo padre ti accompagnerebbe, lo so, infatti deve comunque fare il viaggio. Oh, mamma, replicò Lady Harriet, la figlia più giovane, la più graziosa, la più viziata. Non posso. C'è la festa sull'acqua Made in Head il 20 e mi dispiacerebbe tanto perderla. Poi c'è il ballo di Mrs. Duncan e il concerto della Grisi, per favore, non chiedetemelo. Anche perché non sarei di alcuna utilità. Non sono capace di fare chiacchiere di provincia, non conosco la politica locale di Hollingford. Farei dei danni, lo so. Molto bene, mia cara, sospirò Lady Kemnor. Avevo dimenticato la festa sull'acqua a Maidenhead, altrimenti non te l'avrei chiesto. È un vero peccato che Eton non facciano vacanza, altrimenti ci sarebbero stati i figli di Hollingford ad aiutarvi con gli onori di casa, mamma. Sono dei gradevoli piccoli moralisti. È stato divertentissimo vederli l'anno scorso da Sir Edward a fare gli onori della casa del nonno con una compagnia di umili ammiratori simili a quella che voi ricevete alle torri. Non dimenticherò mai Edgar, che fa da cavaliere a una vecchia signora con un portentoso cappello nero e che le dà indicazioni con la grammatica più corretta del mondo. Beh, mi piacciono quei ragazzi, interloquì Lady Cuxhaven. Stanno diventando dei veri gentiluomini. Ma, mamma, perché non chiedete a Claire di venire a stare con voi? Lei vi piace ed è proprio la persona adatta a risparmiarvi il fastidio di intrattenere la gente di Hollingford. Noi tutti saremmo molto più tranquilli se sapessimo che è lì con voi. Sì, Claire andrebbe benissimo, approvò Lady Kemnor, ma non è questo il suo periodo di scuola o una cosa simile? Non dobbiamo interferire con la sua scuola, sarebbe come offenderla. Infatti, temo che non stia andando troppo bene. È stata così sfortunata da quando ci ha lasciati. Prima le è morto il marito, poi ha perso il posto da Lady Davis e poi da Mrs. Maud e ora Mr. Preston ha detto a vostro padre che questo è tutto ciò che è riuscita a fare per mantenersi ad Ashcombe, sebbene Lord Kemnor le lasci la casa senza chiederle un affitto. Non riesco a capire come sia possibile, commentò Lady Harriet. Certo, non è molto saggia, ma è disponibile, è piacevole e ha modi tanto gradevoli. Credevo che chiunque non avesse grandi esigenze in fatto di istruzione Sarebbe stato contentissimo di assumerla come istitutrice. Cosa intendi per non avere grandi esigenze in fatto di istruzione? La maggior parte delle persone che assumono istitutrici per i loro figli hanno grandi esigenze, osservò Lady Cuxhaven. Beh, così pensano loro, non ho dubbi. Io ti definisco esigente, Mary, ma non credo che mamma lo fosse, anche se era sicuramente così che si reputava lei stessa. Non capisco che intendi, Harriet, fece Lady Kemnor, decisamente irritata dal discorso dell'intelligente e spensierata figlia minore. Oh, cara mamma, per noi avete fatto tutto ciò che poteva venirvi in mente, ma vedete, avevate sempre tanti altri interessi pressanti e Mary non permette quasi mai che l'amore per suo marito interferisca con la sua totale dedizione per i figli. Ci avete fornito i migliori maestri in ogni disciplina e Claire ci sorvegliava come un drago e ci sosteneva nella preparazione richiesta da questi maestri al meglio delle sue possibilità. Ma poi sapete, anzi, non lo sapete, alcuni di questi maestri ammiravano quella nostra istitutrice tanto carina ed erano in corso certi velati amoreggiamenti che di sicuro non approdarono a nulla. Inoltre, voi eravate spesso così prostrata dai vostri impegni da grandama, eleganza e benevolenza e tutte quelle cose lì, che eravate solita allontanare Claire da noi nei momenti cruciali delle nostre lezioni, affinché scrivesse i vostri messaggi o facesse la somma dei vostri conti. E la conseguenza è che io sono quasi la ragazza più ignorante di Londra. Solo Mary fu così ben istruita, grazie alla buona e goffa Miss Benson, da essere sempre traboccante di perfette nozioni, e la sua gloria si riflette su di me. Mary, pensi perciò che Harriet dice sia vero? Domandò Lady Kemnor piuttosto ansiosa. Sono stata così poco insieme a Claire nella stanza delle lezioni. Imparavo con lei il francese. Mi ricordo che aveva un bell'accento. Sia Agnes che Harriet le volevano molto bene. Io ero gelosa per via di Miss Benson e forse. Lady Cuxhaven fece una pausa. Questo mi faceva immaginare che lei avesse un modo di adorarle e di viziarle, non del tutto consapevole, credevo. Ma le ragazze sono giudici severi e di certo lei ha avuto da allora una vita piena di angosce. Sono sempre tanto contenta quando possiamo averla con noi e darle qualche piccolo piacere. L'unica cosa che mi disturba adesso è il modo in cui sembra allontanare da sé la figlia così spesso. Non riusciamo mai a persuaderla a portare anche Cynthia quando viene a trovarci. Ora, questo io lo chiamo spiacevole, commentò Lady Harriet. Ecco, una povera e cara donna che tenta di guadagnarsi da vivere, prima come istitutrice e poi cosa dovrebbe fare con la figlia se non mandarla a scuola? E oltretutto, nel momento in cui Claire viene invitata per una visita ed è troppo schiva per portare anche la figlia con sé, al di là di tutte le spese di viaggio e dell'equipaggiamento, Mary la critica per il suo ritegno e per la sua volontà di risparmiare. Beh, insomma, non ci stiamo occupando di Claire e degli affari suoi, ma stiamo tentando di organizzare una maniera per far star bene la mamma. Non vedo cosa ci sia di meglio che chiedere a Mrs. Kirkpatrick di venire alle Torri, non appena iniziano le sue vacanze, voglio dire. Ecco la sua ultima lettera, disse Lady Kemnor, che l'aveva cercata nello scrittoio mentre le figlie discutevano. Tenendo gli occhiali davanti agli occhi, cominciò a leggere. Le mie solite disgrazie sembrano avermi seguita ad Ashcombe. No, non è questo. Mister Preston è così gentile da mandarmi frutta e i fiori della residenza in obbedienza alle cortesi direttive di Lord Kemnor. Oh, ecco qua. Le vacanze iniziano il giorno 11, come regola per le scuole di Ashcombe. E io devo tentare di procurarmi un cambiamento d'aria e di scenario per mettermi nelle condizioni di riprendere i miei doveri il 10 agosto. Vedete, ragazze, sarebbe libera, sempre che non ha fatto altri piani per le vacanze. Oggi è il 15. Le scrivo immediatamente, mamma, promise Lady Harriet. Io e Claire siamo sempre grandi amiche. Sono stata la sua confidente durante il suo amore con Mr. Kirkpatrick e da allora siamo sempre rimaste intime. So che aveva ricevuto altre tre proposte. Spero davvero che Miss Bowis non racconti le sue avventure amorose a Grace o a Lily. Insomma, Harriet non dovevi essere molto più grande di Grace quando Claire si sposò, osservò Lady Cuxhaven allarmata. No, ma grazie ai romanzi ero ben avviata verso le dolci passioni. Ora, oserei dire che a casa tua tu non ammetti romanzi nella stanza delle lezioni, Mary. Perciò le tue figlie non potrebbero elargire la loro discreta simpatia all'istitutrice, qualora lei fosse l'eroina di una storia d'amore. Mia cara Harriet, non voglio sentirti parlare dell'amore in quel modo. Non sta bene. L'amore è una cosa seria. Mia cara mamma, le vostre esortazioni arrivano con 18 anni di ritardo. Ho parlato così tanto d'amore da toglierne ogni freschezza ed ecco perché sono così stanca dell'argomento. Quest'ultima frase faceva riferimento a un recente rifiuto di Lady Harriet che aveva recato dispiacere a Lady Kemner e alquanto infastidito Milord. Infatti loro, i genitori, non riuscivano a riscontrare alcun punto a sfavore del gentiluomo in questione. Lady Cuxhaven non voleva che si riprendesse l'argomento, dunque si affrettò a dire: Chiedete alla povera figliola di venire con la madre alle torri. Insomma, deve avere 17 anni o anche di più. Mi farebbe molta compagnia, mamma, se la madre non fosse in grado di venire, propose Lady Cuxhaven. Non avevo nemmeno 10 anni quando Claire si sposò e ora ne ho quasi 29, aggiunse Lady Harriet. Non dirlo, Harriet. In ogni caso, adesso ne hai 28 e sembri molto più giovane. Non c'è bisogno di star sempre a parlare della tua età a ogni occasione. Però adesso ce n'era bisogno. Volevo calcolare quanti anni avesse Cynthia Kirkpatrick. Penso non possa essere così distante dai 18. So che è a scuola a Boulogne, perciò non credo che possa essere così grande. Claire dice qualcosa nella sua lettera su di lei. In queste circostanze, l'insuccesso della sua scuola. Non posso ritenermi giustificata a permettermi il piacere di avere la cara Cynthia a casa per le vacanze, specialmente perché il periodo in cui la pausa scolastica comincia in Francia è diverso da quanto è usuale in Inghilterra. Potrebbe causare un po' di scompiglio nei miei programmi se la cara Cynthia venisse ad Ashcombe a occupare il mio tempo e i miei pensieri subito prima della ripresa dei miei doveri l'8 di agosto, data in cui iniziano le sue vacanze, ovvero 2 giorni prima che finiscano le mie. Ecco, vedi Claire, sarebbe totalmente libera di venire da me e direi che per lei sarebbe proprio un cambiamento piacevole. E Olinfor è occupato con il suo nuovo laboratorio alle torri e fa continuamente avanti e indietro. E Agnes vuole venirci per cambiare aria, non appena recupererà le forze dopo il parto. E persino il mio caro insaziabile io, tra 2 o 3 settimane, ne avrà abbastanza di divertimenti. Se dura questo caldo. Penso che potrei riuscire a venire anch'io per qualche giorno, se me lo permettete, mamma. Porterò Grace, che è piuttosto pallida e magrollina. Temo stia crescendo troppo velocemente. Perciò spero che non vi annoierete. Mia cara, replicò Lady Kemnor, tirandosi su. Dovrei vergognarmi di sentirmi annoiata con le mie risorse, i miei doveri nei confronti degli altri, di me stessa. Il programma fu presentato in quella forma a Lord Kemnor, che lo approvò con entusiasmo, come faceva sempre, con i progetti della moglie. Il carattere di Lady Kemnor era forse un po' troppo impegnativo per lui, in realtà, ma egli era sempre pieno di ammirazione per le sue parole, per le sue azioni, e in sua assenza era solito vantarsi della sua saggezza, della sua benevolenza, della sua influenza, della sua dignità. Come se questo potesse fare da sostegno alla propria più debole natura. Molto bene davvero. Claire verrà con voi alle torri, perfetto. Io stesso non avrei potuto organizzare niente di meglio. Verrò con voi mercoledì, in tempo per i divertimenti di giovedì. Quel giorno me lo godo sempre. Sono persone così simpatiche e socievoli, quelle signore di Hollingford. Poi passerò una giornata con Sheepshanks. E magari potrei fare una scappata ad Ashcombe a incontrare Preston. Brown Jess può farcela in giornata, sono 18 miglia, di sicuro. Eccoci di nuovo alle torri. Quanto fa 18 per 2? 30? 36, corresse Lady Kemnor aspra. Infatti, avete sempre ragione, mia cara. Preston è un tipo sveglio e arguto. A me non piace, dichiarò Milady. Bisogna conoscerlo, ma è un tipo intelligente ed è anche così avvenente che mi stupisce che non vi piaccia. Non mi curo che un amministratore terriero sia bello oppure no. Costoro non appartengono alla categoria delle persone al cui aspetto io faccio caso. Certo che no, ma è un bel tomo. E ciò che potrebbe piacervi di lui è l'interesse che nutre per Claire e per le sue prospettive. Sta sempre a suggerire qualcosa che possa essere fatto per la sua casa. E so che le manda frutta, fiori e selvaggina regolarmente, come dovremmo fare noi se vivessimo ad Ashcombe. Quanti anni ha? Chiese Lady Kemnor con un lieve sospetto inerente alle ragioni. Penso circa 27. Capisco cosa frulli in testa vostra signoria. No, no, è troppo giovane per questo. Dovete cercare un uomo di mezza età se volete che la povera Claire si sposi. Presto non va bene. Non sono una che combina matrimoni, dovreste saperlo. Non l'ho fatto neanche per le mie figlie. Non è probabile che lo faccia per Claire, affermò lei, posandosi languidamente all'indietro. Beh, potreste fare di peggio. Sto cominciando a credere che lei non ce la farà mai a fare la direttrice di una scuola, anche se non sono certo di capirne il perché. Per la sua età è una donna insolitamente bella e il fatto che abbia vissuto nella nostra famiglia e che l'abbiate avuta così spesso con voi dovrebbe essere un bel vantaggio. Dico, mia signora, cosa ne pensate di Gibson? Sarebbe proprio dell'età giusta. Vedovo e vive vicino alle torri. Vi ho appena detto che non sono una che combina matrimoni, mio signore. Suppongo che dovremo tornare per la strada vecchia. Le persone in quelle locande ci conoscono. E così passarono a parlare d'altro che non di Mrs. Kirkpatrick e delle sue prospettive scolastiche o matrimoniali.